Ho sempre pensato che nella vita, una volta che tocchi il fondo, non puoi andare ancora più giù. Invece a quanto pare, puoi. Non si sa come, ma puoi. C'è sempre il peggio al peggio. Non ci si ferma mai. Se va così, va così. Ho sempre perso il mio percorso. La maggior parte delle volte a scuola mi hai promosso. Scusa mamma, sono stronzo. Ho tradito quello che ho promesso. Non dovevo, non lo faccio per commuovere. Eppure sono un po' commosso. Volevi mi calmassi come un lago, ma trovo sempre mare mosso. Mi chiedo sempre come mai. Come mai? Ho imboccato questa strada. Questa strada? Forse è stata la passione per la musica. Non so dirti com'è andata. Ho fatto quello che provavo. Ho scritto e registrato. Ho sbagliato e ci ho rimesso. Sapevo che rischiavo. Non mi sono fatto mai un programma. Lo facevo per la vita. Dicevo che potevo ricambiarla. E quando in tanti mi hanno detto, lascia stare che fai meglio, gli ho risposto non vi ascolto. Non vi ascolto. Ve lo giuro non vi sento. E non ho mai mollato, no. Ti giuro che non ho dato proprio niente per scontato. Un amico m'ha fregato, ma subire poi ho imparato. Se il maestro è tanto bravo, ti assicuro che da mo' l'ho superato. Svegliate. Io dico sempre che sto fuori, ma stanno fuori più gli altri. Ho provato emozioni che non saprei spiegarti. Che siano ricchi imprenditori o giovani perdenti, siete tutti matti. Se sto per i fatti miei, per distinguermi dai tanti. È difficile spiegarlo un tantino, ma mi manca mio fratello. E gli auguro di tutto, ogni cosa, ma solo tutto è il meglio. Ovviamente. E mi accorgo solo adesso, di quanto sto crescendo. Quasi fosse solo ieri, che scippavo al negozietto. Non sono tanto grande, posso fare ancora danni. Ho più cervello di un adulto sui 40 nonostante ho 20 anni. E chi critica il mio nome non sa neanche cosa dice. Ho passato la mia infanzia senza amici e senza amiche. Cambiare casa ogni mese non sai manco che vuol dire. Stai zitto e sei cortese che mi rendi più felice. Faccio quello che mi piace, non ti piace? Mi spiace, ciao. Io dico sempre che sto fuori, ma stanno fuori più gli altri. Ho provato emozioni che non saprei spiegarti. Che siano ricchi imprenditori o giovani perdenti, siete tutti matti. Se sto per i fatti miei, per distinguermi dai tanti. Più che malato sono mai amato. E più che malato sono malandato. E più che malato sono immacolato. E più che malato mi ha manipolato. E più che malato sei mancato. E più che malato sono macchiato. E più che malato sono malaggiato. E più che malato dico sempre che io dico sempre che, dico sempre che sta fuori, ma stanno fuori, ma stanno più, fuori gli più gli altri. Ho provato, emozioni che non saprei spiegarti. Che, non saprei spiegarti. Che siano ricchi, che siano ricchi imprenditori o giovani perdenti. O giovani perdenti. Siete tutti, siete matti. Tutti matti. Siete tutti matti. Io dico sempre che sto fuori,